L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta nel nuovo orario. In questa stagione infatti saremo sempre in onda dopo il GR delle 13. Questa settimana ci occuperemo di costruzioni, ma non costruzioni ordinarie. Ne parliamo grazie al Made Expo, l'esposizione Milano Architettura Design Edilizia, che si è tenuto, lo sappiamo tutti, la scorsa settimana, dove hanno esposto oltre 1400 aziende che operano in questo settore. Un settore, sappiamo bene, che non gode di buona salute ultimamente, ma c'è finalmente un inizio di ripresa da segnalare e ci sono anche diverse novità interessanti, come ad esempio quelle portate a un convegno intitolato L'architettura vegetale e alternativa, curato da Nemeton Magazine e Wolters Kluwer Italia. In passato, in questa trasmissione, forse ricorderete, abbiamo parlato più volte delle costruzioni in canapa. Oggi andiamo alla scoperta invece di altri possibili materiali da costruzione. Le interviste in questa puntata sono tutte di Stefano Totoro, il collega che è stato inviato al MAD Expo, e la prima che ascolteremo è quella all'architetto Maurizio Cardenas, che in passato ha lavorato anche con Renzo Piano, proprio alla sede del Sole 24 Ore e di questa radio. È colombiano. Cardenas, laureato a Bogotà, vinse una borsa di studio a Firenze, anni fa si trasferì a Milano per una breve esperienza di lavoro che invece non finì mai, poiché è ancora qui in Italia. Interessato all'utilizzo dei materiali naturali da sempre, si è appassionato al bambù, dice lui, perché è parte della sua cultura, della Colombia, dove le canne crescono spontaneamente fino a 30 metri di altezza. Lei si è specializzato nelle costruzioni in bambù e acciaio. Quali sono i vantaggi di questi materiali insieme? Allora, l'acciaio lo conosciamo bene, è un materiale che utilizziamo nella costruzione in Italia, in Europa, anche a livello mondiale. È un materiale che poi viene è facile non solamente da reperire, da utilizzare, da progettare, col quale progettare. E il bambù è un materiale naturale, è un prodotto della natura, quindi non è un'elaborazione, è già pronto, è un tubo, è vuoto, è una struttura, è molto resistente, composto di fibre, paragonabile piuttosto alla fibra di carbonio anziché che all'acciaio, nonostante viene denominato acciaio vegetale. Quindi inserire questi due materiali, uno minerale e uno vegetale, ritroviamo una potenzialità enorme nelle strutture. Prima per il tema della sostenibilità, stiamo utilizzando un materiale che in solo 3 anni è maturo, pronto per l'utilizzo. Attualmente quanto è applicabile, quanto è possibile utilizzare il bambù per le costruzioni? Allora, in Europa le normative permettono di fare costruzioni temporanee, non è possibile fare delle costruzioni a lungo termine. O permanenti, intendo dire questo, ma penso che sia come teniamo in conto che il legno lamellare in Italia è stato normato da non più di 10-12 anni, no? Quindi è un processo nel quale bisogna spingere e bisogna portare avanti, cosa che sto facendo tra l'altro. I vantaggi quali sono? Oltre ovviamente al basso impatto ambientale, immagino che ci sia un basso impatto ambientale da un punto di vista di costi. È molto economico, costa meno del legno, appunto perché può essere utilizzato dalla foresta al cantiere, quindi non c'è un processo di elaborazione industriale particolare, quindi è un materiale che poi cresce in solo 3 anni, è un infestante, è una pianta, non è un albero, e quindi si ritrova ovunque. Tra l'altro è una pianta che assorbe il diossido di carbonio, è la pianta che durante il ciclo di vita assorbe più diossido di carbonio, quindi è un'alternativa, non dico che debba sostituire un altro tipo di materiale o debba diventare l'unico materiale, però è un materiale che non abbiamo nel nostro abaco di materiali e dovrebbe rientrarci perché è eccezionale, sarebbe per fare coperture, strutture leggere, gli ultimi piani dei palazzi io li farei in bambù per esempio. Che tipo di lavorazione richiede il bambù per la costruzione? La protezione agli insetti e alle parassita, quindi semplicemente un'immersione in acqua con alcuni componenti oppure chimici oppure naturali. Invece i limiti proprio dal punto di vista del materiale? Il limite del materiale è il fatto che non è normato in questo momento. La reperibilità è come tutti gli altri materiali, no? Io paragono il bambù al vetro, all'acciaio, al calcestruzzo. dicono ma non è italiano, ma certo, ma il vetro è italiano e può crescere in Italia, ci sono le condizioni climatiche perché crescono delle specie date per la costruzione in Italia, quindi si può pensare di farlo crescere in Italia o di importarlo come gli altri materiali. Di costruzioni con il salice, invece, si occupa Alberto Rabitti, una laurea in ingegneria, ma questa è la sua vita precedente, e ora un'attività legata appunto agli edifici vivi che crescono, quelli vegetali. Ma adesso al convegno si parlava del fatto che le città bisogna ripensarle e io non lo so in quanti modi ancora può il salice aiutare. Di sicuro sono certo che per esperienze vissute o fatte, che per la microclimatizzazione degli spazi esterni nelle città aiuta. Può essere elemento di arredo nel modo più semplice, ma anche strutturale per avere dei percorsi in ombra, degli spazi di gioco per i bambini, delle strutture a gazebo piuttosto che dei porticati o addirittura delle passerelle lungo i fiumi e via dicendo. Ovviamente in Italia, anche per rispettare determinati standard di sicurezza, immagino che sia impossibile pensare a delle costruzioni, a delle strutture completamente in salice o comunque dove il salice possa essere un elemento strutturale. Quali sono i limiti che ci sono in Italia e come viene utilizzato all'estero? Diciamo, è una tecnica che in Italia non è normata, quindi in un qualche modo si rientra dentro al buon senso e ai riferimenti culturali dei diversi uffici tecnici, ma alla base stiamo parlando di piante vive. Il salice nelle strutture lo si utilizza per talea, vuol dire che dalla pianta madre si tagliano rami di lunghezze variabili, io li ho usati fino ai 10 metri di lunghezza e piegati per fare degli arconi di 4-4,5 di altezza. Le strutture, si dice struttura perché diventano piante che diventano talee, rami o fasci di rami che si autocompensano facendo una struttura molto rigida e negli anni tu vedi nell'esperienza che ormai mi sono fatto che poi le piante si fondano tra di loro. Per finire, oggi esperienze che hanno una portata strutturale, io ne conosco molte poche, ti citavo prima queste passerelle lungo i fiumi. Che costi ha questo tipo di materiale per la lavorazione e anche per il reperimento del materiale? Ti direi che prima di tutto ha un costo culturale, ha un costo di tempo, ti devi dare il tempo di andartele a prendere, di conoscerle, di provarle e da lì parte quindi la doppia possibilità, o quello di affidarti un artigiano come posso essere io o quello di provare con l'artigiano tu a fare le cose che hai già sperimentato. I costi sono molto diversi a seconda di quello che si fa, io preferisco dire non far portare il materiale, tale rami di salice, da fuori, quindi da uno che le coltiva come me, come noi, ma fare prove e poi utilizzare quello che hai vicino a costo zero e dopo l'unico costo è la manodopera per lo scavo, per la struttura e per l'irrigazione. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, questa settimana ricordiamo stiamo spigolando tra gli ospiti di un convegno che si è tenuto al Made Expo la scorsa settimana, un convegno dal titolo L'architettura vegetale e alternativa. Grazie alle interviste di Stefano Totoro abbiamo già conosciuto le costruzioni con il bambù dell'architetto Maurizio Cardenas e poi quelle ancora più vegetali, se possibile, in salice con Alberto Rabitti. Non edifici, ma arredi urbani, in questo caso parchi, percorsi nei parchi, aree gioco e così via. A questo punto passiamo a un'altra protagonista di questo convegno, Eliana Baglioni, architetto dedito alla causa della paglia e delle costruzioni in terra cruda. Dal suo curriculum apprendiamo che tra l'altro ha lavorato in Cile in progetti di restauro e riabilitazione strutturale di edifici patrimoniali in terra cruda. In Italia certamente è un'attiva appassionata organizzatrice di iniziative sull'architettura appunto in terra cruda, la bioarchitettura, l'autocostruzione e ci sono numerosi suoi corsi segnalati su internet, li potete trovare facilmente. Ed ecco di che si tratta nelle parole della stessa Eliana Baglioni. Lavoro principalmente con terra cruda e con balle di paglia. Per quali tipo di costruzioni vengono utilizzate questi due metodi? Allora, principalmente diciamo per le abitazioni private. In realtà possono essere utilizzate in qualsiasi ambito architettonico, ma tendenzialmente è il privato quello che dimostra un interesse prevalente. Ci spieghi un attimo che cos'è la terra cruda e come viene utilizzata? Allora, la terra cruda consiste nell'utilizzare la terra che noi calpestiamo quotidianamente, quasi tutte le le terre si possono utilizzare a scopi costruttivi con degli accorgimenti, la possibilità di utilizzare la terra come materiale da costruzione è data dalla capacità coesiva dell'argilla che è contenuta all'interno della terra. Dobbiamo stare attenti a degli standard di sicurezza che vengono imposti, ovviamente sono stati imposti sempre di più negli ultimi anni. Come si può rispettare questi standard di sicurezza utilizzando questo tipo di materiale? Ok, allora, questo materiale in realtà è un materiale sicuro perché appunto da sempre è stato utilizzato e ci sono edifici antichissimi che tuttavia esistono e stanno in piedi. In realtà a livello normativo non possiamo utilizzarli a scopo strutturale perché la normativa italiana, mentre in altri paesi d'Europa o del mondo ci sono delle normative specifiche, non consente, non riconosce questi materiali come materiali strutturali. Quindi tendenzialmente si lavora con una struttura portante, preferibilmente lignea, perché è un materiale anch'esso naturale più compatibile con la terra cruda o con le balle di paglia e quindi si può garantire, diciamo, la resistenza sismica. Ma sia la terra cruda che le balle di paglia sono materiali che nascono in realtà come materiali strutturali. È solo una nostra limitazione normativa che non ci permette di utilizzarli in questa maniera oggi in Italia. Esiste una limitazione perché esistono degli scetticismi su questo tipo di materiale? Sì, esistono molti scetticismi, soprattutto perché essendo materiali legati all'agricoltura, che venivano utilizzati soprattutto in aree rurali, c'è uno scetticismo legato innanzitutto allo status, ovvero si tende a pensare che sono materiali poveri e per i poveri. E poi appunto sulla resistenza e la durabilità. Abbiamo parlato della terra cruda, dobbiamo parlare delle balle. Esatto, ho anticipato l'utilizzo delle balle di paglia in costruzione. Questa è una tecnica, diciamo, più recente, risale alla fine dell'Ottocento con l'invenzione della macchina pressatrice. Le balle di paglia possono essere utilizzate per realizzare delle murature oppure come tamponamento all'interno di una struttura portante. Sono entrambi appunto materiali naturali, costruire con questi materiali dà un valore aggiunto all'edificio che noi costruiamo. Perché? Perché in realtà realizziamo un edificio innanzitutto più salubre proprio per la nostra salute, perché sono materiali naturali che non hanno emissioni nocive. E poi pensando anche proprio al ciclo di vita dell'edificio, di cui troppo spesso ci dimentichiamo, sono materiali totalmente riciclabili che possono essere rimessi in natura o riutilizzati per le costruzioni. Inoltre hanno la terra cruda una forte inerzia termica, quindi permette di inglobare in termini semplici il calore al proprio interno e rilasciarlo lentamente con uno sfasamento temporale. Quindi questo si traduce nel fatto che in estate siamo freschi all'interno di una casa di terra, in inverno il calore che creiamo all'interno con il riscaldamento impiega parecchio tempo prima di uscire. Le balle di paglia invece hanno un forte isolamento termico, quindi garantiscono di stare caldi d'inverno all'interno, ma anche freschi d'estate. Bisogna in realtà farli lavorare insieme proprio per questo, perché la paglia garantisce l'isolamento, mentre la terra garantisce l'inerzia termica. Quindi accoppiati insieme danno uno spazio, diciamo, abitabile con una temperatura più o meno costante durante tutto l'anno. E in questo modo si risparmierebbero anche parecchi soldi di bollette. Esatto, si risparmia soprattutto in fase di utilizzo dell'edificio, ci sono delle stime anche che dicono che si arriva a risparmiare anche fino a un 70% sul costo della bolletta per il riscaldamento e il raffrescamento. E a livello attuale purtroppo lo scetticismo è molto più forte sulle costruzioni in terra cruda piuttosto che su quelle in balle di paglia, quindi molto spesso si lavora con intonaci di terra che possono essere utilizzati anche in edifici esistenti. Difficilmente si riesce a realizzare interi edifici in terra cruda. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata e facciamo un punto anche sulle costruzioni in legno. Se ne è fatto un gran parlare negli ultimi anni, purtroppo per i terremoti, almeno all'inizio per i terremoti, ma in fondo c'è stato un risvolto positivo in tutto questo. Si è tornati a pensare al legno come un serio e sicuro materiale da costruzione. È un settore in crescita, quello degli edifici in legno, in controtendenza rispetto all'edilizia tradizionale. Emanuele Orsini è direttore generale di System Costruzioni, un'azienda di lunga esperienza che realizza case e strutture in legno. Orsini, al microfono di Stefano Totoro, parte da una constatazione fondamentale. Senza il cambio della normativa, che c'è stato, non avremmo potuto raggiungere certi obiettivi. La modifica alla normativa tecnica, il DPR 382 del 2010, ci ha aiutato nel modificare logicamente l'approccio al mondo del legno. È logico che la modifica di questa normativa ha fatto sì che il materiale legno sia diventato equivalente agli altri prodotti, quindi cemento e ferro. Quindi ha eliminato il vincolo dell'altezza, perché fino a prima noi avevamo una norma che ci imponeva che oltre i tre piani tutti i progetti dovevano andare al Consiglio dei Lavori Pubblici a Roma, quindi è logico che questo incrementava la burocrazia e chi doveva investire faceva fatica a rapportarsi a, diciamo, a tale passaggio. È logico che questo noi ha incrementato moltissimo. Ma oltre alla normativa, diciamo che la materia legno, quindi le case in legno, le strutture in legno, sono state, diciamo, anche molto riabilitate dopo il sisma dell'Abruzzo e il sisma dell'Emilia Romagna, perché come posso ricordare, in Abruzzo il 50% del progetto casa è stato ricostruito totalmente casa in legno per la sua rapidità, per la sua ecocompatibilità e sostenibilità, e il quasi 40% della ricostruzione fatta delle scuole in Emilia Romagna altrettanto è stata fatta in legno. Quindi è logico che tutto questo crescere, diciamo, di ragionamenti sulla materia legno hanno fatto sì che il legno venga sdoganato, diciamo, anche nella vecchia cultura del fatto che la casa doveva essere solo costruita in materiali tradizionali. Che vantaggi ci sono nel costruire in legno? Beh, logicamente il legno, faccia conto che uno dei primi vantaggi, come abbiamo detto, per quanto riguarda la sismicità, e quindi visto che l'Italia è un paese molto sismico, è uno dei materiali che reagisce meglio alle forze, diciamo, che derivano dal sisma. La rapidità della costruzione, quindi voglio dire, oggi il tema della costruzione dei social housing, per intenderci, quindi dove si ha la necessità di costruire case in tempi rapidi, costruire in legno vuol dire costruire circa con un terzo dei tempi delle case tradizionali. E oltre a questo, il fatto che in ogni modo dobbiamo cominciare a ragionare nel risparmio di emissioni di CO2, produrre un metro cubo di legno equivale all'80% di risparmio di CO2 confronto le costruzioni, diciamo, in un metro cubo di prodotto tradizionale. E oltre a questo non ci dobbiamo dimenticare che le case in legno, raggiunta il suo termine nel momento in cui verranno demolite, il prodotto che anima la struttura può essere recuperato per creare energia. Quindi questa filiera a lungo termine è logico che crea tantissimi vantaggi. Negli ultimi anni c'è stata una flessione molto forte nel settore dell'edilizia. Quanto ha inciso sul vostro settore, sulle costruzioni in legno, e in che fase siamo adesso, se c'è una ripresa oppure no? Beh, guardi, è logico che dire che il mondo dell'edilizia non sia in crisi oggi è oggettivo, quindi purtroppo noi siamo all'interno del sistema edilizia e quindi è logico che la crisi c'è per quanto riguarda gli associati del mondo del legno, che fanno solo copertura in legno. Mentre per fortuna il mondo di case in legno, edifici portanti in legno, è un mondo di nicchia che sta crescendo e sta crescendo bene. In questo momento io ho sentito anche nella fiera del Madexpo in questi giorni alcuni player più importanti, e abbiamo soddisfazione del fatto che abbiamo ordini avanti, diciamo che questo è un prodotto che sta funzionando. Nel 2010, quando noi abbiamo fatto il primo sondaggio per capire quante case in legno si facevano in Italia, si ragionava più o meno su un 6%. Noi stimiamo al 15 del 2015 che questo 6% diventerà dal 12 al 18%. Ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Stefano Totoro per la collaborazione al Made Expo e quindi a tutte queste interviste realizzate nel convegno L'architettura vegetale e alternativa. Vi ricordo che per scriverci c'è l'indirizzo internet l'altropianeta@radio24.it. Da domani troverete tutto online sulla pagina del nostro sito dedicata a questo programma, L'altro pianeta. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.